Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow of Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. 22esima puntata. Ogni parola che scrivo su quegli eventi del 1964 è il risultato di una battaglia contro il silenzio. Una battaglia che sono destinato a perdere, perché anche dopo tutti questi anni non so dove, in quale recesso del mio mondo, vive questo silenzio, del quale so soltanto ciò che non è. Ad esempio, non è il silenzio di una memoria imperfetta, né il silenzio imposto dalla mancanza di libertà, niente di tutto ciò, niente fili spinati né frontiere che possano indicarmene i limiti. Non so nulla di questo silenzio, eccetto che vive fuori dalla portata della mia intelligenza, al di là delle parole. Ecco perché questo silenzio è destinato a vincere, a sconfiggermi definitivamente, perché non è in nessun modo una presenza, è semplicemente una lacuna, un buco, un vuoto in cui non ci sono parole. Il nemico del silenzio è il discorso, ma non possono esserci discorsi senza parole, né parole senza un senso. Ne consegue necessariamente, come in un sillogismo, che quando si cerca di parlare di fatti di cui non si conosce il senso, ci si perde nel silenzio, che è la lacuna tra le parole e il mondo. È un silenzio che sta al riparo da qualunque gesto di scherno o di coraggio. Infatti, quale possibilità abbiamo di sfidare la pura mancanza di senso? Dove non c'è senso, c'è la banalità, di cui appunto questo silenzio è fatto, e per questa stessa ragione non può essere sconfitto, perché è il silenzio di un'assoluta, impenetrabile banalità. Un silenzio così cieco che mi ci sono voluti 15 anni per scoprire che c'era un nesso fra l'angoscia che mi colse sull'autobus che mi portava indietro da scuola e quanto accadde a Tridibe e agli altri ad Acca. E per di più la mia scoperta è il risultato di una pura coincidenza, di un'osservazione del tutto casuale. Per molto tempo dopo quella scoperta mi è stato difficile perdonare la mia stessa stupidità, ma naturalmente in un certo senso non c'era nulla da perdonare. Ero un bambino come tutti i bambini intorno a me. Crescevo convinto della validità dei principi che avevo a disposizione. Credevo nella realtà dello spazio, credevo che la distanza separi, che sia qualcosa di concreto. Credevo nell'esistenza di nazioni e confini. Credevo che al di là del confine esistesse un'altra realtà. Gli unici rapporti previsti dal mio vocabolario tra queste diverse realtà erano la guerra e l'amicizia. Quest'altra cosa non aveva nome. E le cose che il mio vocabolario non prevedeva venivano semplicemente respinte al di là, nello iato di quel silenzio. Forse non ho realizzato che c'era qualcosa di più di una casuale coincidenza tra gli eventi che vidi di sfuggita dal finestrino di quell'autobus a Calcutta e i lontani eventi di Dhaka, per la semplice ragione che Dhaka è in un altro paese. In un pomeriggio del 1979, poco dopo aver cominciato a lavorare al mio dottorato di ricerca, mi recai a una conferenza alla Ten Murty House Library a New Delhi. Il relatore era un australiano, specialista di problemi asiatici. Non era un parlatore particolarmente dotato e non aveva niente di nuovo da dire. Tuttavia risvegliò la nostra memoria e quando io e i miei amici, dopo la conferenza, scendemmo nei locali dello spaccio, ci ritrovammo a parlare dei nostri ricordi di quell'epoca. Eravamo tutti stupiti del numero di cose che riuscivamo a ricordare di quell'ottobre del 1962. Per quanto mi riguardava, ricordavo che all'inizio della guerra la mia famiglia si era appena trasferita nella nuova casa di Southern Avenue. Fu subito dopo Durga Puja. Mia madre e io avevamo indossato i nostri nuovi abiti festivi e aspettavamo il rientro di mio padre per andare in visita dai parenti. Lui però era molto in ritardo e quando finalmente udimmo il cigolio del cancello, mia madre mi condusse subito in giardino affinché leggesse il rimprovero sui nostri visi. Ma lui non fu affatto sconvolto dai nostri cipigli. Mi prese in braccio, mi sollevò in alto ridacchiando, sentivo odore di whisky nel suo fiato e disse: «Sai che cosa è successo? Nehru ha ordinato all'esercito di respingere quei musi gialli fuori dai nostri confini. Ci sarà una guerra!» Mi liberai dal suo abbraccio e corsi al piano di sopra dalla nonna urlando di gioia. «Tamma!» gridai, «c'è una guerra con la Cina!» Ricordo che si mise a ridere. Era molto tempo che non rideva. Mi strinse a sé e disse: «Speriamo di dargli una lezione!» Seduti nello spaccio, davanti alle nostre tazze di tè piene a metà, ricordammo che avevamo imparato in fretta a distinguere i loro aeroplani dai nostri, che le nostre madri avevano donato braccialetti e orecchini per la causa, che noi facevamo collette sugli angoli delle strade e vendevamo bandierine di carta. Tutti ricordavamo che l'euforia si era trasformata in smarrimento quando ci eravamo resi conto che l'esercito cinese aveva respinto l'esercito indiano e ci eravamo interrogati sull'eventualità che occupassero l'Assam e Calcutta. Uno di noi, un marxista alto e barbuto di nome Malik, ci disse che suo padre, che a quell'epoca era membro del Parlamento, una mattina aveva aperto il giornale e si era precipitato fuori di casa con indosso soltanto i lunghi ed era corso fino al bungalow del ministro degli esteri in fondo alla strada. «Non è strano», disse qualcuno, «che ricordiamo tutto così bene?» «Direi di no», disse Malik, «non è affatto strano. È stata la cosa più importante accaduta nel nostro paese quando eravamo bambini». Gli altri annuirono concordi. Ma io dovevo essere all'altezza della mia reputazione di spirito polemico, perciò scossi il capo e dissi: «Ah, in realtà fu soltanto una scaramuccia da qualche parte sulle colline, una cosa senza importanza. Non ce ne ricorderemo neppure se l'esercito indiano non avesse preso quella tremenda batosta. Per la maggior parte della gente non significò nulla». «D'accordo», disse Malik sorridendo, «allora dici tu che cosa fu più importante della guerra del 62?» Ero in difficoltà, ora che mi chiedeva di far vedere le mie carte. Sotto i loro sguardi mi grattavo la testa cercando una via d'uscita. D'un tratto, senza nessuna ragione apparente, dissi: «E che dire dei tumulti?» «Quali tumulti?» chiese Malik. «Ce ne sono tanti». «Quei tumulti», dissi io, «dovetti fare il conto degli anni sulle dita, i tumulti del 1964. I loro visi mutarono lentamente espressione e si guardarono l'un l'altro. «Quali furono i tumulti del 1964?» chiese Malik accigliato e perplesso. Era evidente che non sapeva assolutamente di cosa stessi parlando. Mi rivolsi agli altri e gridai: «Ma non ve ne ricordate?» Distolsero lo sguardo scuotendo la testa con imbarazzo. In quel momento realizzai che erano tutti di Delhi, che io ero l'unico cresciuto a Calcutta. «Dovete ricordarvene per forza», dissi. «Ci furono dei tumulti terribili a Calcutta nel 1964. «E che cosa accadde?» chiese Malik. Aprì la bocca per rispondere e scoprì che non avevo nulla da dire. Avrei potuto raccontare soltanto di quelle voci che echeggiavano al di là del muro della scuola e di quell'occhiata di sfuggita alla moltitudine che si accalcava in Park Circus. Il silenzioso terrore che accerchiava la mia memoria di quegli eventi e la mia fiducia nella loro importanza sembravano ridicolmente sproporzionati in confronto a reminiscenze così irrilevanti. Ero disorientato. Dissi, ci furono dei tumulti. Ci sono tumulti in continuazione, disse Malik. Quelli furono terribili, dissi io. Tutti i tumulti sono terribili, disse Malik, ma comunque deve essersi trattato di una questione locale, per quanto terribile non può essere paragonata a una guerra. Ma non ti ricordi, dissi ancora. Non hai letto niente e non ne hai sentito parlare. Dopotutto la guerra con la Cina non è avvenuta proprio sulla tua porta di casa, eppure te la ricordi. Ti ricordi senz'altro, devi ricordartene. Scossero la testa dispiaciuti e soffiarono nubi di fumo dalle loro sigarette. Mi alzai e diedi una pacca sulla spalla a Malik. Ero deciso a non lasciar svanire il mio passato senza che ne restasse traccia. Ero deciso a convincerli della sua importanza. Vieni con me, dissi. Andiamo in biblioteca a dare un'occhiata ai giornali del 1964. Ti farò vedere. Fece l'occhiolino agli altri e bevve d'un fiato quel che restava del suo tè. D'accordo, disse. Andiamo. Nella quieta penombra della biblioteca con l'aria condizionata ci dirigemmo verso gli scaffali in fondo dove erano conservate in volumi rilegati le raccolte dei vecchi giornali. I volumi di quello che cercavo, un diffuso quotidiano di Calcutta, erano allineati sulla terza fila di scaffali. Per il 1964 c'erano 4 mastodontici volumi. «Ti ricordi la data o almeno il mese?» mi chiese Malik. Scossi la testa. No, non mi ricordo, dissi. Beh, non possiamo cercare a casaccio in mezzo a tutta questa roba, disse indicando i 4 volumi. Ci porterebbe via intere giornate. E allora cosa possiamo fare? Dissi. Ci sarà un libro o qualche cosa in cui se ne parla, suggerì. E se non troviamo il libro che ci serve? Dissi. Allora, disse Malik pazientemente, dovremo dedurne che è solo frutto della tua fantasia. Si voltò e si diresse verso una fila di scaffali. Malik conosceva la biblioteca a menadito. L'aveva utilizzata per parecchi anni per le sue ricerche. Si fermò davanti a uno scaffale e me lo indicò. Era una sezione relativa alla guerra del 1962. C'erano interi scaffali di libri sulla guerra, resoconti, analisi politiche, memorie, opuscoli, prova autorevole dell'eloquenza della guerra. Poi, con un ampio sorriso, indicò un'altra serie di scaffali. Era la sezione sulla guerra con il Pakistan del 1965. Perlomeno quella l'abbiamo vinta, disse. Ma dopo mezz'ora non aveva ancora trovato nulla sui miei pretesi tumulti. Malik era annoiato adesso. Diede un'occhiata all'orologio e mi batté amichevolmente sulla spalla. Devo andare a casa, disse. Magari un altro giorno. Annuì in silenzio, infastidito all'idea di aver vissuto tutti quegli anni con il ricordo di un evento immaginario. Poi, mentre Malik si girava per andarsene, un bizzarro dettaglio mi si affacciò alla mente, un vago ricordo dell'eccitazione che sentivo quella mattina mentre aspettavo sul marciapiede che comparisse l'autobus della scuola. «No, non te ne andare!» dissi afferrando un braccio di Malik. «Mi sono ricordato di una cosa!» Fu durante un incontro internazionale di cricket con l'Inghilterra, credo. Ti ricordi quella serie quando quel giocatore messo in squadra all'ultimo momento riuscì a segnare 100 punti recuperando le palle in porta? Certo, disse ridendo, certo che mi ricordo. Budi Kunderan, giusto? Sì, gridai, proprio lui, Budi Kunderan. Dunque, deve essere stato durante il torneo di cricket, forse in gennaio o in febbraio. D'accordo, disse Malik, ma questa è la tua ultima possibilità. Andiamo a dare un'occhiata. Tornammo alla sezione dei quotidiani e tirammo fuori il volume di gennaio e febbraio del 1964. Cominciammo a scorrerlo a ritroso, guardando prima le pagine sportive. Ben presto Malik trovò un riferimento all'arrivo della squadra inglese di cricket. Poche pagine dopo ci imbattemmo in un titolo che diceva: «Il torneo di Madras comincia oggi». «Ci siamo!» gridai trionfante. Fu quel giorno, adesso ricordo, ascoltai la cronaca alla radio quando tornai a casa. Era l'edizione di venerdì 10 gennaio 1964. Girammo rapidamente le pagine fragili e ingiallite finché arrivammo alla prima pagina. «Dove sono i tuoi tumulti?» disse Malik. L'articolo di fondo non aveva niente a che fare con i tumulti né con Calcutta. Parlava della 68esima sessione del partito del congresso a Bhubaneswar. Sbalordito e incredulo, lessi reso conto di un discorso in cui il signor Kamaraj, presidente del partito, esortava tutti coloro che hanno fede nel socialismo e nella democrazia a unirsi per realizzare un obiettivo comune, la costruzione di una nuova società. «Sembra», disse Malik, «che i tuoi tumulti non ce l'abbiano fatta ad arrivare in prima pagina». Ma un attimo dopo trovai quello che andavo cercando, un breve articolo in fondo alla pagina con un titolo che diceva «29 morti nei tumulti». «Ecco», dissi battendo il pugno sul giornale, «ecco, leggitelo da solo». Mi tenni in disparte, ansimando, sentendo la testa leggera per il sollievo, e lo osservai mentre leggeva l'articolo. Lo lesse una volta, lentamente. Sulla sua fronte comparve una ruga, tornò indietro e lo rilesse dall'inizio. Poi mi guardò e disse: «Non hai detto che i tumulti avvennero a Calcutta?» «Sì, certo», dissi. «È strano», disse richiudendo il giornale, «perché questi tumulti ebbero luogo a Khulna, nel Pakistan orientale, non lontano dal confine con Calcutta». Mi parve che il pavimento di quella quieta, familiare biblioteca mi scivolasse sotto i piedi, lasciandomi sospeso in aria. Sarei caduto se Malik non mi avesse sostenuto saldamente. Tenendomi con tutte e due le mani, mi appoggiai alla scrivania e lessi l'articolo. Diceva che il giorno prima, a Khulna, l'esercito era stato costretto a intervenire quando una manifestazione era degenerata, dando luogo a violenti tumulti. «È strano», disse Malik, fissandomi con curiosità. «È davvero molto strano che tu conservi il ricordo di tumulti avvenuti in Pakistan». Poi si allontanò, scuotendo il capo. Molto tempo dopo che se ne fu andato, mi resi conto che i giornali riportano le notizie con un giorno di ritardo. Sfogliai le pagine del giornale di sabato 11 gennaio 1964 e infatti eccolo, un grosso titolo a tutta pagina che diceva: «Coprifuoco a Calcutta, la polizia spara, 10 morti, 15 feriti». Confusamente, attraverso il turbine bianco che mi annebbiava la vista, scorsi un altro titolo in fondo alla pagina. Diceva: «A Madras è il giorno di Kunderan, 170 palle non battute nel primo incontro». E subito sopra, in un piccolissimo riquadro, sotto il titolo «Di nuovo al suo posto la sacra reliquia», veniva riportata la seguente notizia: «Oggi i sacri capelli del profeta Maometto sono stati nuovamente riposti nella teca di Astratbal a Srinagar, salutati da un incontenibile tripudio di folla felice e festosa in tutto il Kashmir». Fu così che, seduto nella pace di un'esclusiva biblioteca con l'aria condizionata, iniziai il viaggio più strano della mia vita. Un viaggio in un territorio fuori dallo spazio, un movimento privo di distanze, un territorio di avvenimenti speculari.